24 Mattino di Simone Spezia e con Maria Latella. Le 8, 17 minuti e 27 secondi, inizia a quest'ora la terza parte di 24 Mattino. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno, e buongiorno anche a Maria Latella. Eccoci Maria. Eccoci, buongiorno, buongiorno Simone. È stato sempre, come sempre, molto interessante ascoltarvi poco fa con Paolo Mieli. C'è da dire che al di là delle cose che avete citato su Leonardo del Giornale, eccetera, un'altra cosa che sulla politica si può proprio brevissimamente aggiungere è il commento di questa mattina di Stefano Folli su Repubblica, che vede anche lì una situazione semi-stabile per il governo, ma soprattutto vede allinearsi quel bipolarismo di cui da tanto tempo parla il segretario del PD Zingaretti, un bipolarismo che restringe quasi, diciamo, annulla la forza dei piccoli partiti, come dire, corollari. Non considero un piccolo partito quello di Giorgia Meloni, senz'altro no, ma secondo Folli appunto partiti più piccoli come Italia Viva, eccetera, avranno sempre meno forza se le cose si mantengono così. È l'ultima cosa che questa settimana politica ci consente di dire, ora parliamo d'altro. Sì, ovviamente. Parliamo di un momento storico, l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea. Alla mezzanotte di oggi, stasera a mezzanotte, la Gran Bretagna esce dall'Unione Europea. Sul momento è un fatto essenzialmente politico, perché ci sarà un periodo di transizione finché non si troverà un accordo, però così è. Siamo in linea con il nostro Sergio Nava, che è inviato in questo momento a Calais. Che cosa farai, Sergio? Proverai a attraversare il confine? Come funziona esattamente? Ciao Simone. Buongiorno. Non sarà a nuoto, ovviamente, non preoccupatevi, no. Ma sarà domani mattina a bordo di un traghetto insieme a un tir italiano e al suo autista, che appunto farà questa tratta per la prima volta domani mattina alle 7.40, così prevediamo, ora continentale, le 6.40 britanniche. Ci imbarcheremo a Calais per andare a Dover e varcare per la prima volta questo confine con un paese terzo, perché da domani l'Inghilterra, la Gran Bretagna, a tutti gli effetti un paese extracomunitario, non dimentichiamolo. E questo è... E con noi anche Marta Dassù, credo, vero? Sì, esattamente. Marta Dassù, direttrice di Aspenia, ex sottosegretaria agli esteri. Buongiorno Dassù, benvenuta. Buongiorno, grazie dell'invito. Eccoci qua. Buongiorno Marta. Due giorni fa sul Financial Times uno dei suoi principali editorialisti, l'economista Martin Wolf, commentava così la, diciamo, definitiva partenza della Gran Bretagna dall'Europa. Il Regno Unito entra in un mondo nuovo, in un mondo che pensa darà lui il più grande controllo sul destino, ma non è detto che sia così, e soprattutto entra in un mondo nuovo laddove la maggioranza dei giovani di quel paese, in questo mondo nuovo, in questa decisione di lasciare l'Europa, non era per niente d'accordo. Allora, che cosa sta succedendo in un paese che ha la metà dei suoi giovani contro la decisione di uscire e però ha da un lato i grandi poteri, si direbbe i poteri forti, che hanno lavorato anche per questa uscita pensando di guadagnarci tantissimo con la Gran Bretagna, che diventerà probabilmente una specie di Singapore a due passi dal continente europeo? La Gran Bretagna è divisa, lo si è visto sul voto Brexit, ma è soprattutto divisa per una tangenziale, diciamo così, nord-sud. Il nord è deindustrializzato, ha votato per Brexit, il sud è più prospero, è Londra, è globale. È una specie di divide nord-sud all'incontrario di quelle italiane. La grande scommessa di Boris Johnson è di riunificare questo paese. Oggi si terrà la prima riunione del Consiglio dei Ministri non a Londra ma a Sunderland, uno dei comuni appunto del nord che ha votato a favore di Brexit e che è stata strappata ai laburisti. Boris Johnson deve risolvere problemi che, come dice Martin Wolf nell'editoriale che lei citava, non hanno granché a che fare con l'Europa, sono problemi inglesi, britannici, di un'economia che per molti anni non ha investito nelle infrastrutture, ad esempio. Quindi deve decidere quanto usare la leva dello Stato, in parte lo farà, e quanto invece fare quello che lei diceva, una specie di area fortemente deregolamentata che l'Europa teme molto. Ecco, la grande scommessa per l'Europa è di evitare che si crei una specie di mega paradiso fiscale ai suoi confini vicini, perché questo sarebbe un problema economico anche per noi. Sì, naturalmente. Tornerei da Sergio Nava. C'è questa divisione che ci diceva Marta Dassù tra nord e sud, c'è la divisione che accennavamo, quella tra giovani e meno giovani, e poi c'è la questione scozzese. Oggi Antonello Guerrera su Repubblica intervista Nicola Sturgeon, dice sarà triste, molto triste, noi scozzesi saremo pure arrabbiati, ma soprattutto dice torneremo in Europa da indipendenti, e questa è un'altra grande grana sicuramente. Sicuramente lo è, e sarà una grana che Boris Johnson dovrà risolvere, diciamo, nei prossimi mesi. Molto dipenderà anche, dobbiamo essere molto chiari su questo, molto dipenderà da quello che accadrà tra fine febbraio e, diciamo, pure ottobre di quest'anno, quando Gran Bretagna ed Europa dovranno forgiare il nuovo rapporto di partnership anche commerciale, perché questa sarà, se vogliamo, sarà il vero banco di prova per capire innanzitutto i rapporti tra i due blocchi, ma anche il futuro di nazioni interne alla Gran Bretagna come la Scozia, che vogliono ovviamente rimanere molto vicine all'Europa. E su questo quello possiamo anticipare, le voci che circolano, le indiscrezioni che circolano, parlano di un Boris Johnson che già la prossima settimana, se non ricordo male martedì, darà già delle indicazioni sulla piattaforma, la base negoziale su cui, attraverso cui Londra intende negoziare questa partnership futura. Ebbene, Johnson pare sia intenzionato a dire siamo disposti a pagare le conseguenze, ma noi vogliamo disallinearci rispetto all'Europa sugli standard, sulle regolamentazioni, e andare, diciamo, per conto nostro e poter poi forgiare altre partnership per esempio con gli Stati Uniti. Quindi è un Johnson che è pronto a un'altra grande scommessa, e questa grande scommessa non è così ben vista in Europa, perché l'Europa, quello che vuole l'Europa è sì avere un rapporto di libero scambio, il famoso nessuna quota, nessun dazio, ma anche nessun dumping. Quello che teme l'Europa è un dumping da parte dell'ex ormai alleato britannico, e qui riconduciamo anche a quel punto la questione scozzese, perché invece la Scozia vuole rimanere in qualche modo molto allineata e molto all'interno dell'Europa. Ci sarà un altro referendum scozzese? Difficile dirlo, perché su questo Johnson ha già detto no. Una situazione alla catalana improbabile al momento, perché gli scozzesi non vogliono arrivare agli eccessi che abbiamo visto a Barcellona. È tutto da vedere, ma lo scopriremo probabilmente nei prossimi 10-11 mesi. 800-24-00 Maria, fammi solo ricordare il numero, sì. Permettimi, 800-24-00-24 se volete intervenire in diretta, 349-238-6666 per gli sms, i messaggi su WhatsApp, anche audio, e iniziano ad arrivare i vostri messaggi, alcuni molto critici anche con i giornalisti e anche con noi. Alcuni di noi hanno detto, beh, insomma, questa Brexit, quando abbiamo visto che la tiravano per le lunghe, no, che non sarebbe... Alcuni di noi hanno detto, beh, alla fine non arriverà mai. E altri invece che mettono tutto nel contesto di una possibile disgregazione dell'Europa. Prego Maria, scusami. 3 anni e mezzo ci è voluto perché Brexit si realizzasse, e a quello che mi consta anche da amici inglesi, pure quelli che avevano votato contro Brexit alla fine erano sollevati. Invece io penso a quei tanti genitori che hanno figli che studiano o che lavorano in Gran Bretagna, e mi chiedo, e lo chiedo sia al nostro collega Nava che a Marta Dassù, siccome Boris Johnson ha fatto chiarezza su questo, ha detto noi vogliamo un'immigrazione di qualità, per esempio i ricercatori italiani, e ce ne sono tantissimi, che lavorano negli istituti di ricerca in Gran Bretagna non dovrebbero avere problemi, però invece gli studenti, per esempio l'Erasmus, e lì è un'altra storia. Secondo voi alla fine come andrà a finire? Io penso spesso alle nuove generazioni, come andrà a finire per gli studenti o anche i giovani lavoratori che stanno in Gran Bretagna? Chi risponde? Nava. Beh, allora, Rispondo io, comincio io. Diciamo che anche qui bisogna essere, da un lato guardare agli accordi presi e dall'altro fare delle ipotesi sul futuro. Per quanto riguarda lo status quo, ricordiamo ancora una volta, l'abbiamo ripetuto all'infinito, ma è importante che si sappia, fino al 31 dicembre quest'anno non cambia nulla, possiamo noi stessi continuare a fare turismo in Gran Bretagna senza problemi, si può andare a cercare lavoro o fortuna o opportunità oltre manica, non c'è problema. A quel punto bisognerà accumulare i famosi 5 anni per avere il settled status. Tutto cambia dal 1 gennaio 2021. Allora, in due modi. Per quanto riguarda l'Erasmus, occorrerà capire se la Gran Bretagna manterrà una qualche forma di collaborazione o partnership a livello universitario e accademico, perché tecnicamente la Gran Bretagna uscirà dal programma Erasmus, non ha più nessun motivo per rimanerci perché è fuori dall'Unione Europea e quello è un programma dell'Unione Europea. Quindi, se la Gran Bretagna troverà una qualche forma di associazione con l'Europa per quanto riguarda gli scambi accademici, l'Erasmus in qualche forma o in qualche nuova formulazione potrebbe proseguire, altrimenti tecnicamente no. Per quanto riguarda l'immigrazione, anche lì Boris Johnson ha messo sul piatto una minaccia, cioè chiamiamola pure minaccia, cioè il famoso sistema di immigrazione a punti australiano. Ci sono discussioni all'interno del governo, è stato dato anche una consulenza da parte di un comitato indipendente proprio negli ultimi giorni. L'idea che potrebbe, almeno l'ipotesi forse più verosimile, è quella che chi arriva senza un lavoro dal 1 gennaio 2021 dovrà avere effettivamente un certo numero di punti che lo qualifichino come talento e quindi conoscere bene la lingua inglese, avere avuto precedenti esperienze in Gran Bretagna, avere una certa qualifica, che so, ingegnere piuttosto che. Chi invece arriva con un contratto di lavoro già in mano, perché magari ha avuto un'offerta di lavoro da un'azienda britannica, dovrà avere una, chiamiamolo pure, un'offerta minima di salario, però si sta abbassando in quel caso la soglia. Sono ipotesi, non è chiaramente chiusa la frontiera britannica, si potrà continuare a espatriare, ma ci saranno delle regole precise da seguire, non ci sarà più una libertà di circolazione come ora. Marta Dassù, a proposito di questo, allora, un pezzo importante della fortuna della Gran Bretagna di questi anni e un pezzo importante di quella che sarà l'economia del futuro è fatta sul capitale umano, sull'attrazione dei talenti, no? E questo lo sappiamo perfettamente. C'è il rischio che sotto questo aspetto l'impoverimento della Gran Bretagna ci sia? Io credo che ci sia una contraddizione di fondo all'interno di Brexit fra questo tentativo di deregolamentare la situazione inglese e quindi di agire sul livello della competizione, la competizione sugli standard, la competizione fiscale, e invece dall'altra parte il tentativo di Johnson di investire molto di più, quindi di spendere, il che riconduce alla fine, a meno che la Gran Bretagna non faccia puramente deficit spending per anni, ha un problema di aumento delle tasse. E si è già visto in qualche caso recente che ha colpito anche imprese italiane come la Ferrero. Quello naturalmente non dipende da Brexit, che di fatto comincia da domani la seconda fase, la fase cruciale. Ma però insomma, avranno bisogno di fare cassa, no, Marta Dassù? Sì, vogliono fare cassa, hanno bisogno di denaro. Sì, questa tensione all'interno di Brexit e della visione di Johnson, secondo me, c'è fra un istinto che lui ha sicuramente come politico molto flessibile di continuare in fondo e di estremizzare, se volete, l'esperienza thatcheriana del passato, e invece la sua idea che un paese così diviso abbia bisogno anche di un intervento forte dello Stato. Ad esempio, nelle infrastrutture sono stati promessi 100 miliardi di sterline di investimento nelle infrastrutture. Quindi dove cadrà la quadratura del cerchio fra questi due istinti abbastanza diversi è molto difficile dire in questo momento, ma la vera sfida di Johnson è quella di riuscire a mettere insieme queste due tendenze, che sono poi anche due tendenze interne al Partito Conservatore inglese. Quello che temevamo da su, no? Quando ci fu il referendum sulla Brexit, ossia un effetto disgregatore sull'Europa, mi sembra che a questo punto, passati questi anni, insomma, esaurita la fase acuta della crisi economica, si sia ampiamente ridotto questo rischio, o non crede? Ma il rischio di contagio, come lo chiamavamo, cioè l'idea che si è avuta la prima secessione volontaria, ne seguiranno molte altre. Questo rischio è stato contenuto in questi fatidici 3 anni e mezzo, in parte dall'unità dell'Unione Europea, che con Michel Barnier ha tenuto una barra abbastanza coesa una volta tanto, diciamo così, e dall'altra dal fatto che effettivamente Theresa May ha fatto una pessima gestione di tutto il processo, fino a quando Johnson l'ha ripresa in mano, devo dire molto più brillantemente, poi ha vinto le elezioni del 12 dicembre molto bene. Certo, se adesso la Gran Bretagna ottenesse tutto quello che vuole ottenere fuori dall'Unione Europea, l'effetto contagio potrebbe ripresentarsi, ma direi che vanno tenute presenti due cose molto importanti. La prima è che i problemi strutturali dell'economia inglese, che fra l'altro non fa parte della single currency, della moneta unica, dipendono da problemi strutturali britannici che non sono attribuibili all'Unione Europea, quindi c'è questo punto fondamentale. Il secondo punto è che la Gran Bretagna ha sempre avuto in Europa una posizione molto specifica, molto singolare, è difficile imitare la Gran Bretagna. La Gran Bretagna in fondo ha sempre oscillato fra la convinzione di essere un paese europeo, of Europe, dell'Europa, come diceva Churchill, ma non perfettamente in Europa, nell'Unione Europea. Ha goduto di una serie di esenzioni dalle politiche comuni, appunto citavo l'euro, ma anche gli accordi di Schengen e così via. Quindi imitare l'esempio britannico secondo me non avrebbe molto senso. Molto dipenderà anche da come andrà questa vicenda Brexit. C'è davvero un'incertezza assoluta su quelle che saranno le conseguenze economiche. Molto dipenderà, Marta, da su anche dalla forza che il legame con gli Stati Uniti troverà nell'accordo, diciamo, Downing Street Casa Bianca, perché è evidente, certo, che la scelta di Brexit significa una Gran Bretagna sempre più legata agli Stati Uniti. In questo mondo che vede Stati Uniti da una parte, Cina dall'altra e l'Unione Europea al centro, lo smottamento di un pezzo di Europa, che come è sempre stata la Gran Bretagna, avrà i suoi effetti. Certamente l'impatto geopolitico è molto rilevante, come lei dice. Johnson in effetti vuole, dice che farà una Gran Bretagna globale. Globale significa che deve avere un buon rapporto con l'Unione Europea, perché il 45% del suo interscambio e una gran parte della vendita di servizi è comunque con l'Unione Europea, il più importante partner commerciale inglese. Deve avere un buon rapporto con gli Stati Uniti, si sposta verso l'Atlantico, lei diceva giustamente, ma non è facile. La vicenda, ad esempio, della scelta sul 5G l'altro giorno, con la decisione di ammettere Huawei nel sistema inglese di 5G, ha provocato una seria e irritata reazione da parte americana, quindi avrà il problema di che relazione stabilire con gli Stati Uniti, e avrà il problema di non perdere la Cina, perché la Cina è un investitore anche finanziario molto importante, soprattutto sul mercato di Londra. Quindi la scommessa della Gran Bretagna globale, per caso e per sfortuna di Johnson, avviene in un momento in cui in realtà la Gran Bretagna dovrà scegliere dove collocarsi, sarà caso per caso messa di fronte a una scelta di campo, e non potrà contare su quell'espansione del commercio libero internazionale che si è avuta invece nello scorso decennio. Quindi avviene in un momento in cui essere globali non è facile. Allora, grazie a Marta Dassù, direttrice di Aspenia, per essere stata con noi, al nostro Sergio Nava, inviato a Londra, le sue cronache, anzi a Calais in questo momento, le sue cronache le sentirete poi nell'arco di questa giornata in GR24 e non solo, anche nella giornata di domani. Grazie ad entrambi, ci fermiamo, una pausa e poi parleremo col Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, 800 24 00 24 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per sms, messaggi su WhatsApp e anche audio. Fate sentire la vostra voce. A tra poco. GR24 mattino. David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Buongiorno, buongiorno a tutti. Maria, prego. Buongiorno David Sassoli, parlavamo prima con il nostro collega Nava e con Marta Dassù della speciale relazione che sembra doversi instaurare tra la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. Questo ha un effetto o avrà un effetto importante anche per quanto riguarda le questioni militari che l'Europa non ha ancora affrontato davvero dal momento che non esiste un esercito europeo. Allora, la mia prima domanda e la mia prima curiosità è: visto che la Gran Bretagna, con la sua tecnologia militare e con i suoi servizi segreti, ha svolto da sempre un ruolo importantissimo, anche interferendo nelle vicende dei singoli stati europei, diciamolo, che cosa succederà adesso che si restringono, diciamo, le due sponde dell'oceano, insomma, che la Gran Bretagna si sposta sempre di più verso Washington? Ma noi non siamo gelosi delle relazioni degli altri. Naturalmente prendiamo sul serio quanto è stato detto finora, e che sì, ci sarà la Brexit, avremo la necessità di negoziare con il Regno Unito un accordo di libero scambio, ma sui temi della sicurezza c'è un grande punto di vista comune. E anche una buona dose di realismo. Noi sappiamo quanto sia importante per il Regno Unito e l'Europa, e quanto sia importante il Regno Unito per l'Europa, e naturalmente se non ci saranno punti di vista comune, la sicurezza sarà meno garantita per tutti. Da questo punto di vista credo che i problemi siano molto meno sentiti di quanto lo possano essere i trattati commerciali, che naturalmente implicano la difesa per ognuno da domani di interessi che valgono per le nostre imprese, per i cittadini, per le nostre famiglie, per i nostri giovani, che naturalmente vogliamo continuino a viaggiare liberamente, ma lo diciamo anche per i giovani britannici, perché altrimenti il passaporto poi varrà per tutti. E questo da un punto di vista dei segnali che possiamo vedere in questo momento, impegnano il rapporto tra Regno Unito e Stati Uniti, mi sembra che ci sia un po' troppa facilità nel definire degli accordi commerciali che potrebbero arrivare molto presto. Gli accordi commerciali hanno un iter molto sofisticato, complicato. Pensate che per noi e il Regno Unito significherà rivedere migliaia e migliaia di accordi commerciali. Stiamo parlando di un'attività che da oggi impegnerà per molto tempo sia l'Unione Europea sia il Regno Unito. Mi dica una cosa, Sassoli, non intravede lei comunque il timore dalla sua posizione, da Strasburgo, che insomma questo tirare degli Stati Uniti, tirare la Gran Bretagna insomma verso quella sponda dell'Atlantico possa appunto condurre ad un accordo che poi farà sì che Londra diventi, ed è il rischio, no, che paventiamo un po' tutti, diventi un po' la Singapore d'Europa, e quindi rappresenti quel luogo che fa una concorrenza, mettiamola così, aperte virgolette, sleale, no, al resto del continente dal punto di vista finanziario e magari anche industriale? Ma guardi, io ho una sensazione un po' diversa. Io sto vedendo e stiamo vedendo anche a Davos l'altra settimana quanto interesse si sia da parte di tutto il mondo economico, finanziario, nei confronti del mercato europeo. Noi siamo un patrimonio unico al mondo, per know-how, intelligenza, per attività economiche. Facciamo un po' gola a tutti, non mi sembra, ecco, che questo sia il problema. Adesso noi abbiamo la necessità di difendere tutto questo, perché partecipare al mercato europeo da Stato membro, beh, naturalmente fa parte, diciamo, della partecipazione a un disegno politico comune. Essere fuori dallo spazio economico europeo, beh, significa discutere molto, e credo che nessuno voglia svendere questo. C'è stato, non so se avete notato, in questi 3 anni di discussioni, di arrabbiature, c'è sempre stata, diciamo, la voglia di dividere l'Europa, no? Anche sulla questione della Brexit. Beh, l'Europa non ha mai parlato così, con una voce sola, come sulla Brexit, perché tutti gli stati membri si rendono conto dell'importanza del mercato europeo. Questo credo che faccia ben sperare nel continuare non solo ad avere una voce sola, ma avere, naturalmente in amicizia, con grande disponibilità, però la prerogativa della difesa dello spazio europeo, e credo che questo sia confermato anche dai fatti. Brevissima pausa e poi sentiamo qualche voce dei nostri ascoltatori. Mattino. Ma come si fa a parlare di Unione Europea e quando c'è qualsiasi crisi da qualche parte ai tavoli si siede o Macron o la Merkel? Non so, non sappiamo neanche chi è il presidente della Comunità Europea. Ma come si fa? Buongiorno, onestamente per quanto riguarda la Brexit ritengo che sia un primo passaggio che potrebbe portare effettivamente ad altri ragionamenti da parte di altri stati, nel senso che ci sono secondo me molti stati che iniziano a capire che siamo troppo legati alla Germania, alla Francia, ci sono troppi squilibri all'interno dell'UE e non c'è un'armonizzazione fiscale. E anche Giuseppe da Reggio Calabria che ci ha chiamato. Giuseppe, buongiorno, prego. Buongiorno. Rapidamente. Ah, volevo dire, quello che ho detto prima, la Francia e la Germania a questo punto dovrebbero farsi carico di porre qualcosa contro questo signore, questo Trump, questi sono guerrafondai loro. Se noi riuscissimo a fare un nostro esercito, una nostra Europa unita, ma quantomeno lanciarla, cioè tocca alla Francia e alla Germania. A mio modo di vedere, ora che ora vogliono, chiedono, vogliono, se ne strafregano, vogliono la razza ariana, la razza pura, sì. Porre noi il problema. Vabbè, Giuseppe, diciamo, allora noi... Giuseppe, qua stiamo esagerando un po', però il concetto mi è chiaro e mi sembra, Sassoli, che possiamo riassumere questo da quel che ci dicono gli ascoltatori sia da una parte che dall'altra, che qua si è ad un bivio, no? Questa cosa della Gran Bretagna ci mette di fronte ad un bivio: o l'Europa si unisce di più oppure il rischio di dividersi è molto forte, e l'impressione e che, però e l'impressione, che chiudo solo questo, temono. Chiudo solo dicendo una cosa, Maria, il rischio è che non ci sia abbastanza forza politica perché si vada verso una maggiore unione. Prego, Maria. E volevo dire che i nostri ascoltatori, e non solo loro, però temono una Europa a trazione franco-tedesca sempre più forte. Allora, come possiamo rispondere a queste obiezioni e a questi timori, David Sassoli? Beh, innanzitutto partecipando al gioco europeo, questo è un compito e un dovere di ogni paese membro. Più si discute sui tavoli europei e più si è impartita, diciamola così. Però i telespettatori dicevano due cose, una che è rivolta sicuramente alla politica, però una è rivolta anche al mondo dell'informazione, perché c'è un signore che diceva: chi è il presidente della Comunità Europea? Innanzitutto la Comunità Europea non esiste più dagli anni 90, certo. Noi siamo un'unione. Secondo, se c'è questo grado di disinformazione, beh, questo è un problema un po' di tutti, credo, e dovremmo caricarcelo tutti, perché la consapevolezza di intervenire nel dibattito pubblico con responsabilità, beh, questo fa aumentare il grado di consapevolezza. Sì, però Sassoli, se non lo sanno, mi scusi, sarà un problema dell'informazione, sì, ma sarà anche un difetto di forza politica dell'Unione. Infatti io ho detto che è un problema di tutti, bisognerebbe caricarselo un po' tutti. E per questo lei è qui con noi questa mattina, no? Perché così io i nostri ascoltatori cominceranno ad avere familiarità con la sua voce, e noi speriamo che lei torni spesso a Radio 24 Mattina. Più c'è dibattito sull'Europa e più c'è democrazia. Io non mi spavento quando si discute, si litiga con consapevolezza. Il problema è che spesso e volentieri si ha la sensazione di parlare a cittadini che non hanno la possibilità o non ricevono le giuste informazioni per sostenere anche il loro punto di vista, che magari è profondamente diverso dal mio. Dall'altra, senta, però Sassoli, mi perdoni, molto conta anche da quello che l'Europa riesce a fare, non soltanto a trasmettere come comunicazione. Adesso, tra i molti effetti della Brexit, c'è il fatto che il Parlamento europeo subirà uno spostamento a destra, nel senso che crescerà il peso del Partito Popolare Europeo e anche quello dei sovranisti di Identità e Democrazia, il gruppo guidato dalla Lega, che supera i Verdi. E il peso del partito che fa capo anche a Macron, Renew Europe, sarà sostanzialmente ridimensionato perché passerà da 108 a 97 deputati. Che cosa significherà questo? Ursula von der Leyen ha messo le mani avanti già da tempo dicendo io devo parlare con tutti, anche con i sovranisti. C'è il rischio che tutto si imballi, che tutto si fermi? Allora, innanzitutto mi pare che la signora von der Leyen, che può essere criticata, il Parlamento farà il Parlamento e la Commissione farà la Commissione, abbia, diciamo, avuto parole molto ma molto chiare sulla questione dei sovranisti e dei nazionalisti e di un eventuale loro consenso alla Commissione. Questo è indubbio perché le parole sono lì, ma il tema fondamentale di questa legislatura e noi l'abbiamo iniziata così, ma è un dato politico perché i cittadini si sono espressi, è che non ci saranno più partiti politici troppo più forti degli altri. La verità è che il dato elettorale e anche questa redistribuzione con l'uscita dei britannici lo dimostra, che il fronte europeista, che è più largo rispetto alle altre legislature, avrà la necessità di convergenze, perché altrimenti la legislatura non andrà avanti e non potranno essere votati provvedimenti, disposizioni, leggi e quant'altro. Il problema è la convergenza, ma questo è l'allenamento alla democrazia, che forse l'Unione Europea nelle scorse legislature non ha provato. La convergenza, il trovare mediazioni che tengano insieme questo fronte europeista che è più largo delle scorse legislature. Naturalmente questo implica un esercizio a cui molti partiti europei spesso non sono stati allenati, perché noi abbiamo avuto delle scene in questi anni di gruppi politici molto forti che naturalmente davano le carte, che potevano contare su dei numeri che davano loro una certa autosufficienza. Oggi la scena è cambiata, e ecco perché questa è una legislatura molto politica. Però, se mi permettete, nella considerazione degli ascoltatori c'era un sottofondo che riguardava la presenza dell'Unione sulla scena internazionale, come se la presenza dell'Unione Europea fosse legata all'esistenza o meno di un esercito. Allora, noi stiamo discutendo dal 1953, che fu la battaglia su cui venne sconfitto un italiano importante come De Gasperi, fondatore dell'Europa, sulla difesa comune, perché naturalmente la difesa comune significa far diminuire ad ogni paese la propria forza, il proprio orgoglio. E stiamo discutendo, oggi siamo arrivati a un punto che non è detto che nel prossimo futuro non vi sia qualcosa che somigli a un esercito europeo, perché i meccanismi stanno andando avanti, perché alcuni paesi sentono la necessità di questo, perché i problemi della sicurezza impongono sempre di più agli stati di partecipare insieme. Però l'Europa ha detto una cosa fondamentale, vorrei che anche i nostri ascoltatori lo capissero. Noi abbiamo detto mai più alla guerra. Rapidamente, Sassoli, che siamo in chiusura. Il nostro esercito europeo non sarà mai uno strumento di guerra. Sarà un supporto alla politica estera, questo sì, lo vediamo in tanti scenari, ma attenzione, perché l'Europa noi l'abbiamo voluta come un campo di paesi che scommettano sulla pace, non sulle attività militari. Allora, grazie David Sassoli, Presidente del Parlamento Europeo, per essere stato con noi. Dobbiamo veramente chiudere, non ho il tempo nemmeno per i saluti, tranne Maria Latella. Ciao Maria, ci sentiamo lunedì alle 8.20. Buon weekend al Presidente del Parlamento. Buon fine settimana a tutti, ci sentiamo lunedì alle 6.30. Ciao da Simone Spezia, ciao.